infatti. Ehi, se vuoi avere la soluzione, affidati a questo cordone. Ciao padre Conchetti, buonasera. Ma quel famoso padre Pio che c'era e abitava al monte, che fine ha fatto? Te lo ricordo. Ehi, l'hanno scomunicato che era pedofilo, che... Ma non l'hai più visto di manchi in giro, già lo conoscevi. Allora, questi preti. Questi preti, boh, strano, sono scendo a piso tutta avanti i preti pedofili. Prima non l'ho mai inteso io. Cioè, ha inteso qualche uno che si è ammollato la chiesa, si è sposato, quello sì. Ma pedofili non abbiamo mai inteso, Cappa, meno male che sono frate io. Ma adesso è la moda, adesso è la moda, ne hanno scoperto uno e là su tutti gli altri. Già è una ragazza strana, mi, nonostante tutto. Ho capito, figliolo, anche il cordone. Giuseppe, non ti sembra strana la te questa cosa? Di la verità, tu mai ne hai sentito prima? Di qualcuno che si è sposato, quello si pensa anche tu. Ma di che fatto che i pedofili non abbiamo mai inteso, Sì, in effetti confermo. Anch'io ne ho conosciuto che erano preti, poi sono andati via, quello sì.